tracciare una linea di separazione tra il guasto indirizzo a desiderare le cose che in fondo sai di non volere e quelle che chiameremo necessarie. Stilare una lista di poche premure e il resto accettare di lasciarlo andare. Concediti il tempo di un breve dolore, poi fai spazio a ciò che dovrà arrivare. E nel bene e nel male il sale di tutto sei tu, per quello che vale io resto. Parlino il vento, che dicano pure, non sia tua la casa del luogo comune. Permettiti il lusso di un'altra opinione, è tuo il beneficio di poter cambiare. E nel bene e nel male il sale di tutto sei tu, per quello che vale io resto. Dovuto per sé, tu accenditi come una luce, perché nel bene e nel male il sale di tutto sei tu, per quello che vale io resto.